con Maria Luisa Forenza, regista del documentario Mother Fortress a Roma allo spazio Apollo 11, giovedì 6 giugno 2019. Ben trovata. Salve, grazie Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? a te. È la storia di una piccola comunità internazionale di monaci e monache. Sono vocazioni nate anche da giovani che si trovavano in Cile, Venezuela, Colorado, Portogallo, Belgio, Francia, che hanno deciso poi di prendere i voti in questo monastero prima della guerra. Quando è esplosa la guerra in Siria, loro si sono ritrovati a dover far fronte a questo evento che era inatteso. Ovviamente, e anche, come dire, la loro missione, hanno fornito aiuti materiali e spirituali a tutti coloro che erano intorno al monastero, che è situato nel villaggio, nell'antico villaggio cristiano di Kara, a 90 km a nord di Damasco, e tra Damasco e Homs. E poi si sono organizzati e sono riusciti nell'arco di tutta la guerra a fornire cibo, medicine, vestiti, ambulanze ai siriani anche a nord della Siria, e sono giunti sino all'Eufrate, organizzando convogli umanitari ai quali io ho avuto accesso. Questo film sono riuscita a girarlo perché sono entrata in sintonia con questa comunità internazionale molto interessante, sia dal punto di vista intellettuale, spirituale e poi anche umano. Sono monaci che nei periodi peggiori hanno vissuto tutto questo, la tragedia, anche con grande forza interiore e anche con grande ironia. Per cui quando io sono andata mi sono ritrovata assolutamente confortata da questa bella comunità che molto semplicemente pensava e riteneva che quello che facevano fosse un dovere a cui non ci si potesse sottrarre, e devo dire che hanno contagiato anche me. Per cui con questo spirito sono stata invitata da loro, e però anch'io poi mi sono appassionata e sono tornata 4 volte in Siria a fare un documentario. Non lo considero un racconto di guerra, perché la mia idea è stata quella di attraversare la guerra e raccontare la forza materiale e spirituale non solo dei monaci, ma di tutte le persone che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino, che erano oltretutto prevalentemente sunniti, perché soprattutto negli ultimi anni i cristiani sono costretti a fuggire, oppure sono stati uccisi. Sono stati uccisi, per cui io nella mia sinossi ho messo, non è un film sulla guerra, ma è un film sulla condizione umana in tempo di guerra, e il viaggio lo considero un viaggio materiale e spirituale, una storia di amore, della forma più elevata l'uomo possa esprimere, l'essere umano esprimere. E com'è stata l'origine di questo tuo lavoro? Da dove è partito tutto? Ero a San Francisco e la suora è venuta una prima volta nel novembre 2013, invitata da un'associazione per la pace a San Francisco, a raccontare quello che stava accadendo. Lei non poteva in quel momento preciso ritornare al monastero, perché in quel momento il monastero era sotto attacco da parte dei terroristi e da parte delle forze armate. Quindi invitato da questa associazione, ha cercato di prendere un contatto con l'Occidente, di sapere quello che sta accadendo. Io ho ascoltato una sua conferenza, sono stata molto impressionata. Il suo racconto era molto pacato, ma ti rendevi conto della gravità di questa situazione. Io avevo già affrontato in passato il tema della guerra, o come documentari storici, oppure mi ero ritrovata a documentare raccontare in Guatemala i ritrovamenti di corpi nelle fosse, cioè mi ero già occupata di persecuzione anche a Guatemala, persecuzione dei cristiani. Quindi ho contattato via Skype i monaci, loro mi hanno invitata in un periodo di relativa tranquillità, ho fatto questo sopralluogo e poi ho deciso di continuare. Che percorso sta facendo il tuo documentario? Il percorso è stato abbastanza disagiato perché è stato interamente autoprodotto. Non potevo permettermi di iniziare la vita a un direttore della fotografia, a un fonico, per cui ho capito che dovevo fare tutto da solo e così è stato. Questa eccessiva indipendenza, che a San Francisco è molto apprezzata, è stata un po' più difficile proposta qui in Italia. Ma questo è stato un bene perché mi ha permesso una totale libertà di costruzione di narrazione. E poi è entrata Rai Cinema, quindi è entrata Rai Cinema che è stato un notevole sostegno, per cui diciamo, ho questo logo, ho avuto anche il patrocinio del Ministero Affari Esteri che ha compreso l'importanza dei documenti che stavo producendo, perché la mia spinta era partita proprio dal fatto di documentare quella popolazione siriana costretta a rimanere lì o per mancanza di risorse economiche per poter spaziare oppure per condizioni oggettive. Era una popolazione che era rimasta intrappolata in un paese e che non aveva più lavoro, non poteva più lavorare i campi perché era tutto minato, distrutto, le industrie non esistevano più, gli uffici, chi lavorava, chi faceva un lavoro nell'amministrazione, non funzionava più nulla, per cui una popolazione che era rimasta senza casa, senza lavoro e senza cibo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con il documentario Mother Fortress a Roma, allo spazio Apollo 11, proiezione e incontro con l'autrice, giovedì 6 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Maria Luisa Forenza. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a voi.